ad alta voce. Le metamorfosi di Ovidio, tradotte e lette da Vittorio Sermonti. Libro quattordicesimo, versi 609-851. Venere ha ottenuto da Giove che suo figlio Enea sia cooptato fra gli dei dell'Olimpo. Da Enea si snoda la dinastia dei re di Roma. Alba e Lazio passarono poi nelle mani di Ascanio, dal doppio nome. A succedergli fu un Silvio, il cui figlio Latino, con l'antichissimo scettro, raccoglieva l'iterazione del nome Latino. A Latino succede un'Alba, al quale Alba subentra un Epiro, figlio, e di seguito Capeto e Capi, ma Capi prima, i quali a tal Tiberino trasmettono il regno, il quale, essendo annegato in un fiume di Tuscia, gli ha lasciato il nome, dal quale nascono un Remulo e un Baldo a Crota. Più avanti negli anni, Remulo, nel tentativo di imitare un fulmine, fu folgorato dal fulmine stesso. Suo fratello Acrota, parecchio più saggio di lui, passerà lo scettro al valente Aventino, il quale riposa sul colle sul quale aveva regnato, colle che porta il suo nome. E siamo a Proca, che regna sul popolo del Palatino. Giusto sotto il suo regno viveva Pomona. Nessuna fra le Amadriadi del Lazio era brava a curare giardini come lei, nessuna altrettanto competente in frutteti, di qui il nome Pomona. E Pomona non ama né boschi né fiumi, adora i campi piuttosto e i rami pesanti di frutti. Giavellotti non ne maneggia, maneggia la falce lunata a sfoltire la vegetazione se eccessiva e a potare rami che si allarghino troppo e ad incidere cortecce per innestarvi gemme ed offrire la linfa d'una pianta al pollone di un'altra. Non sopporta che soffrano la sete le fibre storte e assorbenti delle radici e le irriga con rivoli d'acqua. Questa la sua passione, la sua vocazione. Venere non la interessa, ma teme la violenza dei contadini e sbarra i frutteti, proibito l'ingresso, gli uomini fuori. Che cosa non hanno tentato i satiri, i ballerini, i panischi con quelle corone d'aghi di pino e Sileno, sempre più giovanile degli anni che ha, e quel dio che terrorizza i ladri con la falce o col membro, che cosa non han tentato per farsela? Ma fra tutti loro, chi l'ama di più, senza esser per questo molto più felice, è Vertumno. È Vertumno. Ah, le volte che, travestito da mietitore, portava canestri di spighe, sembrando il più mietitore di tutti. Altre volte, col capo fasciato di fieno novello, sembrava uno di quelli che avvolgono l'erba appena falciata. Altre ancora, nel pugno di ferro brandiva un pungolo e avresti giurato che avesse appena tolto il giogo a due bovi sfiniti. Dagli un falcetto e hai davanti un potatore di vigne. Mettigli in collo una scala, è uno che coglie la frutta. Con una spada è un soldato, con la lenza è un pescatore. Travestendosi, insomma, da 100 personaggi diversi, riesce a venirle vicino e godersi lo spettacolo della bellezza. Un giorno, messosi in capo un turbante di tanti colori, appoggiato a un bastone, cernecchi bianchi sopra gli orecchi, si finge una vecchia e, introdottosi negli orti così ben curati, a bocca aperta le dice: «Ma sei la più brava di tutte!» E detto, le dà qualche bacio, di quelli comunque che mai darebbe una vecchia. Si siede gobbetta per terra e di sotto in su sbircia i rami piegati dai carichi dell'autunno. Lì davanti c'è un olmo che luccica, pavesato di grappoli d'uva. Quella elogia l'olmo e la vite che gli si attorciglia, dicendo: «Sì, ma se il tronco celibe non avesse quei tralci addosso, non avrebbe attrattive se non i suoi quattro rami. E la stessa vite che si abbandona all'olmo, abbracciandolo stretto, se non lo avesse sposato, starebbe floscia per terra. Però l'esempio dell'albero non ti sfiora nemmeno, rifuggi qualsiasi piacere d'amore, accoppiarti nemmeno ci pensi. Ma se tu volessi, ne avresti di spasimanti in ginocchio, più di Elena, più di quella che ha scatenato la guerra dei Lapiti, più della moglie di Ulisse, un vigliacco, un eroe. E in questo stesso momento hai un bel rifiutare chiunque ti voglia. Ti vogliono in mille, fra uomini, dei, semidei e quant'altri numi locali frequentino i colli albani. Ma se non sei sciocca, se vuoi sposarti bene e dar retta a questa vecchia che ti ama più di tutti quelli che ho detto e più di quanto tu pensi, rifiuta nozze banali e portati a letto Vertumno. Me ne faccio garante io. Lui stesso non si conosce meglio di quanto io stessa lo conosca. Non è certo uno che vada girando qua e là, non ha uso di mondo, non è il tipo che, come i più, si innamora di tutte quelle che incontra. Il primo e l'ultimo amore sei tu. Tutta a te vuol dedicarla la vita. Aggiungi che è giovane, che la natura lo ha gratificato d'una grande bellezza e che sa cambiare di forma come vuole, come vuoi tu, dà un ordine e lui cambia forma. Non avete gli stessi gusti? I frutti che tu coltivi non è il primo a riceverli, il primo a carezzare i tuoi doni? Ma adesso non gli interessa la frutta che cogli dagli alberi, né la verdura che cresce nell'orto, dolce e succosa. Di tuo non gli importa che te. Pietà del suo amore ed immagina di star ascoltando la sua voce uscire dalla mia bocca. Bada a non provocare gli dèi, in specie la dea di Citera, che detesta i cuori di pietra e l'ira ostinata di Nemesi. Anzi, perché ti preoccupi di più, sapessi le cose che sa la vecchiaia. Ti voglio raccontare una storia notissima a Cipro. Chissà non ti renda più trattabile e mite. Chissà. Ifi, ragazzo di bassa estrazione, la aveva ben vista Anassarete, nobilissima creatura del sangue di Teucro. La aveva ben vista e le ossa gli erano andate a fuoco. Dopo un lungo travaglio interiore, constatato che la ragione si arrendeva al delirio, decise di andarla a implorare a casa. Confessato alla balia quel suo disperato amore, la supplica di non essere dura con lui se a lei vuol bene davvero. Poi, fattosi amico di qualche domestico, lo scongiura, fra il trepido e il petulante, di spezzare una lancia per lui. Spesso affida le sue professioni d'amore a soavi missive, a volte le appende ai battenti della porta, corone irrorate di lacrime, e giace sul duro dello scalino di casa di lei col molle di sé, bestemmiando i di lei catenacci. Ma lei, più feroce del mare che si gonfia a mezzo dicembre, più tenace del ferro battuto nelle fucine del Norico, più della roccia viva che si abbarbica a terra, lei lo schifa e lo irride e rincara con parole umilianti l'infame contegno al povero amante, togliendo qualsiasi speranza. Non sopporta, Ifi non può sopportare uno strazio così, e davanti alla porta di lei dice queste estreme parole: «Anassarete, hai vinto tu. Io non ti darò più fastidio. Contaci, evviva! Glorificalo il tuo bel trionfo, intona canti di giubilo, cacciati in testa corone d'alloro. Tu vinci e io volentieri muoio. Fa festa, infame. Ti costringo a compiacerti di qualcosa che faccio. Ti faccio il più segnalato favore. Dovrai parlar bene di me. Ma ricorda che questa passione non finisce che con la mia vita. Così, morendo, sarà come morissi due volte. E non per sentito dire saprai della mia dipartita. Voglio metterti il cuore in pace. Te la mostrerò di persona e quegli occhi spietati potranno godersi il mio corpo cadavere. Ma se voi, dei del cielo, prestate attenzione alle storie degli uomini, non vi scordate di me. Non riesco ad elaborare preghiera più lunga. Di me si parli negli anni e quel tanto che mi avete sottratto di vita, rendetemelo in memoria. Ci ho detto, elevando occhi bagnati e braccia scarnite al portone che tante volte aveva abbellito di fiori, ferma alla sommità dei battenti una corda ed aggiunge: «Son queste le coroncine che ti piacciono, infame assassina!» Infila la testa nel cappio e, girato verso di lei, si strangola e penzola in aria. Tristissimo peso morto. Colpita dallo scalciare dei piedi, quasi gemesse e rantolasse, la porta si spalanca e mette in scena l'accaduto. Urlano i servi e, staccato quel povero corpo, lo portano, il padre era morto, alla casa della sua mamma. E lei, strillei, abbraccia il corpo gelato di suo figlio. Poi dette tutte le frasi prescritte a una madre sconsolata, eseguiti al completo i rituali del lutto domestico, traversa l'intera città piangendo alla testa del mesto corteo che accompagna sul feretro quel livido corpo alla pira. E si dà il caso che il mesto corteo passi sotto la casa di Anassarete e che i lamenti giungano fino all'orecchio dell'infame, già in preda, peraltro, al nume della vendetta. Per quanto turbata, vediamolo, questo bel funerale, si dice, e sale all'ultimo piano che dispone di grandi finestre. Però non fa in tempo a vedere, composto sul feretro, Ifi, che le diventan di sasso gli occhi e il caldo del sangue diserta un corpo incolore. Fa per ritirarsi, ma i piedi le si inchiodano al pavimento. Fa per girare la testa, non le riesce nemmeno questo, e pian piano le occupa la persona intera la pietra che da sempre portava nel cuore. Non pensare ch'io conti storie. A Salamina c'è ancora la statua che ne conserva l'immagine e un tempio intestato a Venere alla finestra. Riflettici, cara, deponi la superbia e datti, ti supplico, a chi t'ama, mia ninfa adorata. Le gelate di marzo, vedrai, non ti bruciano più le primizie. Vedrai che le furie dei venti non ti strappano i fiori mai più. Se non che con questo discorso, non ottenendo un bel nulla, travestito da vecchia, Vertumno abbandona il trucco senile e, tornato giovane, ecco, si presenta a Pomona, bello come il sole, quando, sbucando da una cortina di nuvole, sprigiona, senza la minima velatura, un trionfo di luce. È deciso a stuprarla, però di violenza non c'è bisogno. Pugnalata da tanta bellezza, la ninfa si è bella che arresa. A Proca succede a Mulio l'ingiusto, che militarmente governa l'Italia. Più tardi Numitore il Vecchio, appoggiato dai nipoti, recupera il regno perduto e durante le feste di Dea Pale fonda le mura dell'urbe. Tazio e il senato dei Sabini gli muovono guerra e Tarpea, schiuso loro l'accesso alla rocca, per giusto castigo muore sotto un mucchio di scudi. Di poi giovanotti di Curi, al modo di lupi silenti, si avventano a bocca chiusa su guardie vinte dal sonno e assaltan le porte che Romolo, figlio di Ilia, aveva sprangato a dovere. Ma una, Giunone la apre lei di persona e, ruotando sui cardini, non cigola affatto. Venere, lei sola, si accorge del fatto che i catenacci han ceduto e li avrebbe riattati, se a un dio non fosse interdetto annullare l'opera d'altro dio. Vicino al tempio di Giano le naiadi ausonie spillavano una bella sorgente gelata. Si rivolge a loro la dea e loro non si ricusano alla sua sacrosanta richiesta e lasciano schizzar fuori tutti i rivoli e tutti gli spruzzi della loro sorgente. Non possono sbarrare peraltro l'accesso al tempio. Quell'acqua non basta. Allora che fanno? La inquinano con un getto di zolfo giallastro e arroventano il flusso immettendogli in vena bitume fumante. Con questi ed altri ingredienti il vapore penetra a fondo nella sorgente, al punto che voi, acque più fredde del ghiaccio delle Alpi un attimo fa, ora siete più calde del fuoco. I battenti del tempio di Giano, irrorati di fiamme, ora fumano e la porta promessa invano ai feroci Sabini è sbarrata dall'inaudita sorgente, dando il tempo ai soldati romani di prender le armi. Poi Romolo scende in campo e quando per terra si sono ammucchiate cataste di corpi Sabini e romani in un'empia miscela di sangue di generi e sangue di suoceri, si decide di chiudere la guerra senza ammazzarsi tutti. Si firma un trattato di pace e Tazio è associato al potere. Poi Tazio muore e tu, Romolo, hai consorziato i due popoli sotto un'unica legge. Quando ecco che Marte, sfilatosi l'elmo, rivolge questo indirizzo al padre di uomini e dei. È tempo, padre celeste, adesso che Roma riposa su così solide basi che si regge anche senza di lui, di assegnare il premio promesso a me e al tuo valoroso nipote, staccarlo da terra e trovargli un posto nel cielo. Una volta davanti a tutti gli dèi riuniti in sessione, quelle tue parole sante alla lettera, me le ricordo, ci sarà uno che tu porterai nell'azzurro dei cieli, mi dicesti. Bene, è il momento che quanto hai detto si avveri. Annuisce l'onnipotente, intasa l'aria di nuvole nerissime e terrorizza la terra col tuono e col fulmine. Al che Marte gradivo capisce che il ratto promesso si sta avverando, si appoggia alla lancia, monta sul carro che sgocciola sangue, menando la frusta stimola i quattro cavalli a lanciarsi a capofitto verso il mondo attraverso gli spazi. A terra, nel bosco che copre la cima del Palatino, e rapisce Romolo in atto di amministrare giustizia secondo la legge. Il suo corpo mortale svapora nell'aria sottile, come la palla di piombo scagliata nel cielo da una fionda si fonde e si scioglie attraversando le nuvole. E si forma una forma bellissima, più adatta a presenziare alle cene celesti. È Quirino col bianco mantello dei consoli. Lo piange Ersilia, sua moglie, talché la regale Giunone dispone che Iride plani lungo la sua parabola a trasmettere questo messaggio alla vedova disperata. Tu, signora, massimo vanto di tutto il Lazio e di tutta la Sabina, all'altezza come nessuna d'essere stata la donna di tanto uomo e adesso del dio Quirino. Smetti di piangere adesso e se ad altro non pensi che a rivederlo, vieni con me. Ti accompagno al colle Quirinale che ombreggia di verde il sacello del re di Roma. Ubbidisce e discesa in terra sull'arco di mille colori, Iride dice a Ersilia quel che le han detto di dirle. E l'altra alzando appena appena gli occhi pudichi, Dea, sebbene io non sappia che tu sia Dea, ci potrei giurare. Portami, dice, sì, portami a rivedere il mio sposo. Se mi concedono i fati di vederlo ancora una volta, dirò d'essere stata in cielo. Poche storie. Con Iride, Ersilia sale sui colli di Romolo e una volta lassù si stacca una stella dal firmamento e piomba dal cielo in terra e i capelli di Ersilia, incendiati dalla sua luce, svaniscono nell'aria insieme alla stella. Lassù il fondatore di Roma la accoglie fra braccia ben note e le assegna ad un tempo un corpo nuovo ed un nuovo nome. Ora la chiama una dea ancor oggi abbinata a Quirino.